destra della matta in teste, che ha dell'anima calcutta, arte si fa cane bastonato, sangue di sacrificio sull'asfalto, arte d'asfalto. Arte d'asfalto. Lagrime tra strade, lamate in teste, cade lacrima calcutta, arte si fa, cane bastonato, sangue di sacrificio, arte d'asfalto. Brillano su teste meggere vecchie mentre banchettano dentro Gandhi, paci finte, guerre ai rapper, donne sorridono, spari su teste, trapper, trappole a penne e vendette, Shiva dalle mille attitudini, sollevando al vento del talento, inchiostri, taglie su teste, viper vendette, ramande di tizi imbellettati su sangue di artisti, morti wanted, da sgheia capa, capo muerte, perdo storie, fumate su stagne, venduti morti su tavoli diablo, d'andranghete, zingarate di muerte, occhi di bimbi nel vento, lacrime di incendio mondi, cape di cape, dita puntati, da capibara taglie su teste, queste teste, feste di muerte, e il nignano al tempo del diavolo, di bimbo muerto, condotto a solitudo, è tempo di una gun, gun, gun, un grembo a madri regno, regno di mago Azgabara, ora macello, condotto a macello, un sogno d'ali, ora sozzo di merda, di mondo, de scroffe vendette, vendute per due storie, che mondo bello per nuove generazioni, ragazze a roie condotte, veline de do, tira tira su stagnole.